Welcome, Federico. The system is ready to jack in. Allora, benvenuti a tutti quanti. Questo è Medium, il podcast su Netrunner. Io sono Federico Latini e oggi abbiamo un ospite, Stefano, il quale si è offerto di partecipare a questa trasmissione in quanto neofita, ma neofita di una certa caratura. Questo perché da pochissimo tempo lui è partito a giocare a Netrunner. Immagino che tu giocassi anche prima qualcos'altro, non penso che sia partito questa fissa di Netrunner da zero o comunque su un terreno non fertile, però ecco, si è ritrovato a fare da neofita di Netrunner a fare un torneo importante come quello di Modena Play e a piazzarsi settimo, ma in realtà sarebbe dovuto essere quarto in virtù del fatto che c'è stato un piccolo errorino che chiaramente giustifichiamo al paddo, il quale lo avrebbe portato un pochettino più su nella classifica. Stefano, raccontaci tutto, com'è andata? Ma è andata molto bene, soprattutto dal punto di vista umano, perché si sono conosciute delle persone nuove, si è conosciuto un modo di giocare nuovo dal vivo, non solo due o tre persone alla volta o un amico che ogni tanto chiami a casa, ma proprio un bel gruppo. Poi a livello di gioco io mi sono divertito, sarei arrivato settimo lo stesso anche senza l'errorino che abbiamo fatto, perché avrei incontrato poi degli avversari più temibili o comunque magari più in alto in classifica, questo non lo so. A me bastava non fare una figuraccia e va bene così, insomma. Poi mi è dispiaciuto non conoscere tutti, non giocare con tutti, ma ci sarà tempo. I complimenti vanno fatti a Paddo e agli altri organizzatori, perché 30 persone sono tante. Ecco, infatti approfittiamo per ringraziare il Paddo, ma mi sento di ringraziare anche Giochi Uniti per aver scelto una location che all'inizio mi sembrava un po' scarsa o comunque meno valida di quella che mi aspettavo di sotto. Invece la location su in cima, un po' isolati, senza la rumba che c'è di sotto, probabilmente ha aiutato un clima più disteso per il torneo. Si può far sempre meglio, però diciamo che non mi è dispiaciuta la location. Stefano, ti chiedo innanzitutto, da quanto tempo giochi a Netrunner? Com'è stato il tuo iter di crescita all'interno di questo gioco? Allora, io lo conosco da pochi mesi, perché sono un appassionato di giochi da tavolo, non tanto di collezionabili, non tanto di giochi di carte, perché Magic non l'ho mai provato, quasi, Yugi neanche, quindi non sono un grande appassionato, però essendo appassionato di giochi da tavolo, prima o poi sarebbe capitato un gioco da tavolo collezionabile come Netrunner. Non ricordo come l'ho conosciuto, se da un sito, me ne ha parlato qualcuno, da una recensione online, non lo so. L'ho preso in italiano e la scatola base mi ha subito colpito parecchio. Poi io per qualche mese ho resistito a non prendere le espansioni, sperando che la Giochi Uniti si muovesse per pubblicarle in italiano, però poi ho ceduto anche per andare un pochino meglio ai tornei, e il primo ciclo l'ho preso in inglese. E niente, io ho notato che riguardo alla lingua quasi tutti lo usano in inglese, anche il core set ce l'hanno in inglese, anch'io ormai mi sto abituando a chiamare le carte col nome originale piuttosto che con la traduzione, ecco. Nella tua zona l'inglese è un ostacolo? Hai fatto fatica, diciamo, a far digerire il fatto che fosse in inglese ai tuoi magari con compagni di Netrunner, oppure è solo per te un ostacolo? Comunque in generale preferiresti l'italiano rispetto all'inglese? Ma no, guarda, l'unico motivo per cui preferirei l'italiano è che l'ho cominciato in italiano, quindi per un discorso di puro collezionismo che comunque con Netrunner va in secondo piano, sarebbe stato carino avere tutto in italiano, però non cambia praticamente niente. Io ho due gruppi con cui gioco, quello dei giocatori classici dove rientra anche il Paddo, Matteo, Daniele, tantissimi giocatori che sono quelli da tempo abituati a giocare, che giocano tutti in inglese, e poi i miei amici più ristretti, occasionali, e lì si gioca solo col mio corsetto, ovviamente lì sono abituati in italiano, ma no, non ho incontrato comunque difficoltà per quanto riguarda la lingua. I tuoi amici ristretti si sono appassionati? Conti che compreranno il gioco e diventeranno appassionati, oppure non sei riuscito a catturarli? Ma sì, sono riuscito a invogliarli ed è già qualcosa. Ne ho già tre o quattro con cui ogni tanto si gioca. Uno di questi probabilmente comincerà anche lui a giocarci seriamente. Un altro paio invece magari rimangono un po' più al limite, quindi non prenderanno il gioco ma continueranno a giocarci occasionalmente. E un altro giocatore molto nerd, avendo già Star Wars. E quindi, essendo già abituato a un certo tipo di spesa, mi sa che Netrunner lo metterà per ora come seconda scelta. Però credo che il risultato sia stato buono per quanto riguarda i riscontri dei miei amici, ecco. Bravo, sei riuscito a contagiare il più possibile. Una domanda importante che mi fanno spesso i nuovi e che rigiro a te, quanti corset devo comprare? Io solitamente rispondo due, tu quanti ne hai? Uno, due, tre? Questa è una bella domanda perché la faccio anch'io in giro. Addirittura conosco Daniele, che è un altro ottimo giocatore di Reggio Emilia, e lui ha comprato tre corset addirittura, ma mi ha detto proprio al torneo. Io ne ho solo uno, però vorrei sicuramente prenderne un secondo perché giocando prevalentemente con NBN ci sono un paio di carte che. AstroScript. Eh sì, esatto, sono obbligatorie da avere in terza copia. Poi dipende sempre dalle disponibilità economiche e dalla voglia di collezionare le carte. Una cosa molto positiva che ho notato da parte della comunità è che c'è una grandissima disponibilità nel prestare anche le proprie carte. Ho già avuto 3-4 richieste. Per prestare alcune mie carte, 3-4 proposte da altri giocatori di prestarmi le loro carte che io avevo in singola copia, in duplice copia per i tornei, quindi alla fine credo che due core siano necessari, ma poi si possono anche fare scambi e prestiti momentanei con altri giocatori perché sono tutti molto, molto disponibili, molto gentili. Mitico. Passiamo alla parte più legata alla palestra, all'allenamento, e quindi parliamo di Octagon. Chiaramente Octagon è un client che ti permette di giocare online con le carte di Netrunner, però non sostituisce l'esperienza di Netrunner dal vivo, però può essere una buona palestra. Tu ne fai uso oppure no? Ma io Octagon l'ho usato un paio di volte e non ci sono abitualmente, più che altro per un discorso di tempo, perché se ho tempo e la possibilità di vedere i ragazzi di Reggio, che comunque ce ne sono parecchi, preferisco giocare di persona, al di là comunque del rapporto umano, che quello è fondamentale. Netrunner, come hai insegnato tu in vari podcast sui trucchi e consigli per il runner e per la corp, è un gioco fatto di bluff, fatto di sguardi, fatto di confronti, fatto di ritrarre una carta o giocarne un'altra. Quindi il lato fisico è fondamentale in Netrunner, credo. Avere il giocatore di fronte e giocare con lui anche di bluff e con tutti questi accorgimenti è importantissimo. Io gioco più dal vivo, ecco. Sì, io sono d'accordo su quello che dici, in generale tendo sempre comunque a dire ai nuovi che c'è questa possibilità di Octagon, perché dà la tranquillità al nuovo che dice: ah, cavolo, non ho nessun altro contro cui giocare, di dire: vabbè, io comunque al massimo ci posso giocare su Octagon. Fermo restando che chiaramente la vera esperienza di Netrunner viene fatta quando sei dal vivo, e quindi chiaramente Octagon non può essere un sostituto in tutto e per tutto, però lo considero insomma una buona palestra. Un'ultima cosa, anzi, ancora un pochettino di domande. Io voglio dare un taglio abbastanza veloce a questa intervista, in virtù del fatto che molto spesso so che gli altri, che chi ci ascolta magari, che ne so, nel viaggio fra casa e lavoro, piuttosto che andandosi a fare una corsetta. E quindi ecco, una domanda importante che ti voglio fare è: tu quale consiglieresti ad un nuovo di comprare subito tutte le espansioni, oppure secondo te si può comunque giocare a Netrunner anche solo con il core set? Non rispondere sapendo che ho portato, come dire, solo il core set al torneo. Quello era così, un esperimento che ho fatto a parte. Ma al di là della tua esperienza, comunque è stata importante, anche gratificante da leggere, perché dimostra che Netrunner è un gioco che non è fatto da carte forti, non è fatto da espansioni da avere assolutamente, ma è fatto dal giocatore. L'hai detto anche giustamente tu in un altro podcast. No, io sono d'accordo con quello che hai detto tu. Penso che un giocatore debba cominciare dal set base per vedere un po' se il gioco lo intriga, lo prende, e può aspettare per comprare tutto. Io adesso non ho ancora il secondo ciclo e non ho intenzione di prenderlo a brevissimo termine, per disponibilità economiche più che altro, però ovviamente sto sempre a guardare le news che ci sono su Facebook, che pubblicate spesso voi, per sapere un po' gli spoiler delle carte. Magari mi stampo qualcosa da leggermi per passione, però averle fisicamente non è così impellente per me. Quindi credo che un nuovo giocatore debba orientarsi prima di tutto sul core, che ti dà comunque una longevità altissima. E in secondo luogo, io vedo ancora oggi, mentre gioco con giocatori molto più esperti di me, molto più bravi, come il Paddo, cito sempre gli stessi, come Matteo, eccetera, eccetera, che i loro mazzi al 70-80% sono ancora composti di carte del core. Non tanto perché siano le più forti, ma perché sono quelle che funzionano poi meglio, e che sono quelle basilari su cui fondare il mazzo. Quindi sì, il mio consiglio è questo. Poi ripeto quello che hai detto tu, che in Netrunner molto lo fa il giocatore, a parte magari la corporazione Jinteki, che ancora non ha un'autonomia propria. Le altre fazioni, tra runner e corporazioni, si equivalgono, sono equilibrate, quindi il resto lo fa il giocatore. Quali sarebbero i consigli che daresti ad un nuovo, proprio sul fronte del gioco? Cioè, per esempio, quali sarebbero le prime due fazioni da giocare secondo te per poter acclimatarsi un pochettino con il gioco? E in generale, qual è l'errore che pensi che tutti i nuovi giocatori fanno e che con un consiglio magari può essere subito stroncato per riuscire a cominciare a giocare subito bene? Ma come corporazione runner consigliati, direi di evitare i consigli che dà il manuale, ma questa è una cosa che ho già sentito da tanti. Ovvero, Jinteki non è la corporazione da provare subito, perché è molto difficile da usare, perché si basa sul bluff, e quindi bisogna essere un pochino capaci di aver già giocato qualche gara. Quindi non so, andrei su Wayland, che è quella che ha l'economia un po' più stabile, che gira meglio ed è un po' più robusta. Come runner, credo che Gabriel sia molto gratificante all'inizio, perché ti permette una libertà di attacco, una libertà economica pazzesca, e ha delle carte anche molto divertenti, come Bank Job e anche altre. Per quanto riguarda l'errore, non saprei sinceramente quale sia. I miei errori non erano tanto nel giocare male, quanto piuttosto nell'interpretare certe regole che non avevo compreso appieno. Quindi l'unico consiglio che posso dare è quello di giocare. giocare il più possibile se il gioco ti prende, se il gioco ti diverte. Magari sì, fare qualche partita con i tuoi amici, con chi è esperto quanto te all'inizio. Se poi trovi anche un giocatore esperto che ti guidi, ti faccia fare un paio di partite facendoti vedere esattamente le regole, tanto meglio. Però penso che di consigli non ne voglio dare, sia perché non sono un giocatore esperto io, e in secondo luogo perché è bello scoprirlo da solo, è bello scoprire da solo certe cose. Non so se c'è qualcos'altro che vorresti evidenziare durante questa intervista, dimmelo pure. Io, bene o male, le domande che volevo farti sono più o meno queste. Ci sarebbe un'ultimissima domanda legata un po', come dire, alla Giochi Uniti, però non so nemmeno tanto se te la voglio fare perché non voglio essere fazioso. Volevo semplicemente sapere che idea ti sei fatto, diciamo, di come la Giochi Uniti sta spingendo il gioco in Italia e insomma quali sarebbero le cose che vorresti vedere fatte dalla Giochi Uniti per far sì che Netrunner, come dire, prenda piede come noi vorremmo che prenda in Italia. Ma io ne so poco, quindi non voglio stroncare la Giochi Uniti fin da subito. Io sono rimasto soddisfatto del lavoro fatto per il core set. Ci sono un paio di errori di stampa, questo ok. Parlando poi con chi è direttamente collegato, come Riccardo, ho sentito che dietro c'è comunque un gran lavoro e stanno preparando delle cose interessanti come appunto le ristampe di certe espansioni, quindi qualcosa penso che si possa muovere in futuro. Poi sono rimasto soddisfatto dall'organizzazione del torneo, anche se comunque la Giochi Uniti non è stata collegata in modo così diretto, però diciamo che finché c'è della gente come il Paddo, come Riccardo, come altri, il gioco, il metagame, il gruppo di Netrunner è in buone mani, al di là della Giochi Uniti. Volevo aggiungere, dato che me l'hai permesso, che per me è stato un fattore molto positivo la sportività, il fair play che ho visto al play, e non era scontato. Io ho partecipato a qualche torneo di giochi in scatola e non è sempre così. In certe partite mi è stato concesso di rifare delle mosse, io ho concesso di rifare delle mosse, ho giocato una partita con la ragazza Irene praticamente scambiandoci consigli su quale mossa fare l'un l'altro, quindi sono state degli episodi veramente interessanti, intelligenti e gratificanti per tutti, quindi questo volevo sottolinearlo. Ma questo io te lo confermo in primis per l'esperienza personale, in secondo luogo ti posso dare anche un feedback a carattere mondiale, anzi diciamo a carattere americano, ascoltando i podcast delle realtà americane, questo aspetto qui del fair play, del essere, diciamo, ambiente rilassato senza troppa aggressività, è forse in contrasto molto con la realtà di Magic, che al contrario dicono tutti che, essendoci soldi in ballo, essendoci comunque molto più sul piatto della bilancia, come dire, l'aspetto dell'aggressività o comunque della non transigenza viene più fuori in Magic. Al contrario, molte persone che venivano da Magic, perlomeno a sentir dire gli americani, si sono stupiti di quanto sia rilassato l'ambiente e chill out, insomma, molto easy going. E quindi sì, sarà che magari è proprio il tipo di ambientazione o il tipo di gioco che attrae determinati soggetti un po' più relax piuttosto che Magic, però non lo so. Poi in realtà la realtà di Magic italiana non la conosco, magari sono tutti relax pure lì, però insomma sicuramente Netrunner il clima è proprio, è buono, tipico di una nicchia, una cerchia ristretta di persone che hanno qualcosa di molto valido per le mani, non vogliono rovinarlo con magari atteggiamenti scorbutici, e insomma siamo tutti sulla stessa barca e vogliamo far sì che Netrunner risplenda più possibile. E, bene, Stefano, Io direi che siamo stati perfettamente nei tempi. Quello che ti volevo chiedere, te l'ho chiesto, quest'ultima cosa assolutamente ci stava, hai fatto bene a sottolinearla e direi che ci vediamo al torneo di Reggio Emilia il 27 aprile. Ho detto la data giusta? Sì. Credo di sì. È un sabato. Dovrebbe essere 17. No, forse. Non lo so, eh. Forse il 26. 26. A mo' ci guardiamo insieme in tempo reale. Google Calendar, ce lo dovrei aver segnato. Allora, io me lo sono segnato domenica 27 Avrai sicuramente aprile. ragione tu. Io pensavo fosse sabato, quindi hai Però ragione. sono disponibile a eventuali errata, quindi non prendete con le pinze, anzi, prendete con le pinze quello che stiamo dicendo, perché siamo due sconclusionati sul fronte delle date. Fate riferimento al Paddo, anzi con questo invito il Paddo a creare i dovuti eventi su Facebook, che così tagliamo la testa al toro. Bene, ci vuoi anticipare già qualcosina su quello che porterai il 27? Ma io non lo so, ho poco tempo per preparare tutto. Se ho tempo provo qualcosina di nuovo perché ho portato NBN e Kate al play pensando di essere originale, ma in realtà originale non ero, non avendo seguito tutte le decklist, eccetera, eccetera, non sapevo che NBN e Kate andavano per la maggiore. Se no, le ripropongo, insomma, Se vuoi essere come veramente sarà. originale, ti basta un bel Jinteki e Wizard, passa la paura. Eh sì, però a qualche punto voglio farlo, al di là del divertimento. Giustamente. Va bene, grazie Stefano per il tuo tempo e per questa intervista. E noi ci sentiamo alla prossima volta che Medium andrà in onda. Una buona serata a tutti, un buon pomeriggio a seconda di quando ci state ascoltando e alla prossima. Ciao! Maintenance mode turned on. Jack out.